Lei non ci capisce niente di esteri, diciamo la verità, Graziano, lei di esteri non ci capisce niente ed è in commissione esteri, questa è la realtà. No, ma perché in Parlamento, adesso io sto scherzando, però in Parlamento... Ma non sta scherzando. Facciamo così, in Parlamento una domandina di esteri, Dove, pronto? Se sì, mi fa parlare un attimo, sì, Graziano, dica. Dove i gruppi, a seconda della loro composizione numerica, devono essere rappresentati in tutte le commissioni. Sì. Nella commissione attività produttive eravamo in troppi. E invece nella commissione esteri mancavano, e allora hanno chiesto, dato che noi siamo responsabili, chi se la sentiva di togliersi dalla commissione attività produttive e andare nella commissione. Ho capito, ma lei non capisce nulla di esteri, Graziano, com'è possibile? Non capisco nulla di esteri per ammissione sua, per carità, ma è legittimo, non è che non capisco nulla. Ho capito, insomma, per sua stessa. Graziano, scusi, qual è la capitale della Siria? La capitale della Siria? Aspetti che vado a vedere su Winky Pinky lì e glielo dico. Come Winky Pinky? È nella commissione esteri lei, Graziano. Capitale della Siria, Damasco. Damasco, bravo, cosa ho visto?